Dietro la notizia. Sono le 8:31 minuti, un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti a Dietro la Notizia. Questa mattina parliamo di pubblico impiego, l'avete sentito nel lancio, e prendiamo spunto da un'inchiesta che trovate questa mattina sul Sole 24 Ore. Si parla di promozioni, si parla di stipendi, ma si parla soprattutto di una generosità diffusa da parte della pubblica amministrazione, in particolare dell'amministrazione locale e delle agenzie fiscali, che negli ultimi 3 anni hanno promosso più del 90% del loro personale. Allora, questa mattina con me in studio è Gianni Trovati. Buongiorno Gianni. Buongiorno a voi. Che ha curato assieme ai colleghi l'inchiesta in questione. Allora, io direi di partire proprio da questo, dai dati. Allora, cosa emerge da questo vostro lavoro? Sì, allora, noi abbiamo analizzato i dati del pubblico impiego partendo dall'ultimo conto annuale, quello rilasciato dalla Ragioneria Generale dello Stato la scorsa settimana, sul fronte degli stipendi e sul fronte delle promozioni. Ed è soprattutto, come dicevi tu, questo secondo dato, come dire, a far emergere le particolarità più importanti all'interno del pubblico impiego. Cioè, abbiamo analizzato negli ultimi 3 anni quante sono state le promozioni, cioè le progressioni orizzontali o verticali, poi vedremo la differenza, che il pubblico impiego ha concesso ai suoi dipendenti. Le promozioni sono state 1.047.000 per l'esattezza, cioè sul totale dei dipendenti, esclusa la scuola che non rientra in questo ambito, vuol dire un dipendente su due, il 47%, ha ottenuto in media una promozione negli ultimi 3 anni. Questo 47% totale nasconde al suo interno appunto delle dinamiche molto diverse tra loro, e in una ideale classifica della generosità del datore di lavoro spiccano gli enti locali, che hanno promosso sostanzialmente tutti, cioè il 93,8% del personale, le agenzie fiscali il 91% e la Presidenza del Consiglio, cioè Palazzo Chigi, che ha promosso il 64,7% del personale. Ecco, questi sono dei dati appunto molto forti. Adesso ti chiederò di aiutarci anche ad analizzarli, perché appunto, come hai detto, sono stati promossi quasi tutti all'interno di regioni autonomie, 90% le agenzie fiscali, eppure all'interno di questa classifica esiste poi una disparità visiva, immediata. Per esempio, il Servizio Sanitario Nazionale, leggo il 15%, gli enti di ricerca, di cui spesso si parla già come posizione di difficoltà all'interno del sistema pubblico, invece solamente il 13,6%. Che cosa succede? Quali leggi governano i meccanismi all'interno dei diversi settori del sistema pubblico? Sì, mettiamoci anche i ministeri con il 17%, che, certo, come dire, ci si poteva aspettare di trovarli in altra posizione, della graduatoria. Soprattutto se le associamo alla Presidenza del Consiglio, quindi esatto, abbiamo due momenti diversi. Esatto, due realtà, tra virgolette, simili, analoghe tra loro a livello di organizzazione, molto diverse poi nei risultati. Ma i meccanismi sono quelli che, rappresentano una delle storture più evidenti del pubblico impiego, cioè oltre al classico, paradigma che è noto, cioè in passato, no, su cui si basa il pubblico impiego, cioè pochi stipendi uguale poco controllo, questo dout des un po' particolare, c'è anche il fatto che, partendo magari da livelli retributivi non elevatissimi, anche se, come vedremo, sono saliti più che quelli del settore privato, le retribuzioni di fatto poi vengono spinte in qualche modo con vari mezzi, per cui la promozione non diventa più in molti settori un premio al merito, ma è una cosa che già ci si attende per rimpinguare un po' le retribuzioni contrattuali, che magari sono meno generose. Cioè, sembrano degli automatismi compensativi. Sostanzialmente sì, è uno strumento, contrattuale integrativo che permette agli stipendi di salire un po', di combattere il caro vita e quant'altro, con tutte le strutture che naturalmente questo meccanismo, l'applicazione in questo modo di questo meccanismo comporta, cioè il fatto che se io sostanzialmente utilizzo le promozioni come incentivo generalizzato allo stipendio, non ho più, prima di tutto, nessuno strumento per premiare davvero il merito, perché è come quando si andava a scuola, no? Sottolineare tutto il libro e sottolineare nulla è la stessa cosa. Promuovere tutti e non promuovere nessuno dal punto di vista dell'incentivo è la stessa cosa, dal punto di vista delle spese di personale no. Assolutamente, io voglio subito introdurre allora il nostro ospite questa mattina. Abbiamo in linea Antonino De Gentile, che è un dirigente del vertice delle Agenzie delle Entrate, attualmente ricopre l'incarico di direttore dell'Agenzia delle Entrate del Trentino, è revisore contabile e professore a contratto nella Facoltà di Economia all'Università di Palermo. Allora, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Dunque, a voi e agli ascoltatori. Con lei vogliamo parlare sicuramente di merito e di come questo problema emerga nettamente tra la, diciamo, la generalizzata promozione e in generale il mancato riconoscimento individuale. Prima però vorrei una sua considerazione sul dato. Le agenzie fiscali ha sentito il 90.9% delle promozioni. Come valuta all'interno proprio della sua struttura questo dato? Perché così alto? Guardi, io, la mia esperienza è questa. È vero che abbiamo fatto delle promozioni come passaggi di carriera, sia orizzontali che verticali, ma abbiamo fatto delle promozioni selettive, nel senso che abbiamo fatto delle prove d'esami ai vari candidati e a seguito di queste prove d'esami, dove sono state affrontate materie fiscali e giuridiche, abbiamo selezionato i vincitori. Lei deve tenere conto che l'Agenzia delle Entrate investe molto sulla formazione, che per noi è una forte necessità per fornire servizi qualificati. Il personale quindi cresce professionalmente ed è giusto che ne abbia il riconoscimento di carriera, ma tengo a sottolineare, dopo attenta verifica, di avere acquisito le giuste capacità professionali. Difatti, per i concorsi che abbiamo fatto ci sono stati molti non idonei, perché noi ammettiamo circa un 60% in più rispetto ai posti disponibili. Ecco, dottor Gentile, rimane il fatto che il 90% rispetto alle percentuali di altri settori della pubblica amministrazione, abbiamo citato i ministeri, allora quantomeno si può pensare che i meccanismi di valutazione siano alquanto differenziati. Adesso però vorrei innanzitutto dare il numero verde, perché nel frattempo siamo in grado di ricevere eventuali telefonate degli ascoltatori, quindi l'800 24 00 24 per fare una ed eventuali delle domande agli ospiti. E vorrei però subito chiederle, parliamo di merito, esiste la possibilità di misurare il merito con gli strumenti correnti o siamo di fronte nuovamente, come spesso accade in Italia, all'esigenza di costruire un nuovo quadro normativo per poterlo fare? Guardi, la mia esperienza mi porta a dire che noi abbiamo già gli strumenti in essere, i contratti collettivi nazionali di lavoro, quello dell'agenzia, ma anche altri contratti che ho potuto leggere, prevedono già che si misuri l'efficacia della prestazione lavorativa. I fondi che vengono assegnati come salario accessorio prevedono in parte che queste somme siano destinate a premiare il merito individuale. Quindi le previsioni contrattuali già esistono. Il punto è che poi molto spesso noi assistiamo a delle distribuzioni a pioggia. Quindi non si tratta di previsione normativa, si tratta di volontà di applicare quello che già è stato stabilito e di averne i mezzi. Mi spiego meglio. Per poter misurare la prestazione individuale come sistema diffuso e non soltanto per vertici o per alta dirigenza, occorrono chiaramente degli strumenti informatici. Tenga conto che nell'Agenzia delle Entrate sono circa 40.000 dipendenti, quindi è chiaro che deve essere il sistema informativo che deve dare i dati della produzione individuale. Ora, perché non l'abbiamo fatto, per esempio in Trentino abbiamo misurato individualmente la prestazione? Perché in Trentino, ma in tutta l'agenzia, tutti i dipendenti sono dotati di personal computer e tutte le attività sono acquisite dal sistema informativo. Quindi lei dice è fondamentale che ci sia una tracciabilità. Avete una base dati da cui puoi trarre gli indicatori di produttività. Anche se usiamo questo termine per altri settori, credo che gli ascoltatori possano perfettamente capire. Torniamo subito da lei. Gianni, dunque, gli strumenti, l'informatizzazione, la possibilità di valutare la professionalità esiste se si guarda la pubblica amministrazione in senso ampio? Sì, esiste ed è vero quello che appunto si diceva adesso, cioè del fatto che i contratti, le leggi, le normative, gli accordi quadro e tutte le altre forme diciamo che le intese prendono, già ne parlano abbondantemente. Esiste poi il dato che appunto la pubblica amministrazione è molto ricca di storie anche particolari, alcune curiose su questa mancata valutazione. Ne cito una per tutti. Era stato creato qualche anno fa un organismo di tutela per i dirigenti, diciamo, che non ricevevano una valutazione adeguata, una sorta di tribunale d'appello a cui il dirigente della pubblica amministrazione non valutato, valutato negativamente, poteva rivolgersi per contestare, per, come dire, proporre un'altra visione alternativa. Questo organismo è rimasto drammaticamente inattivo per anni, con il presidente che a un certo punto si è messo a scrivere, il presidente di questo organismo che si è messo a scrivere lettere a tutti, al ministro dell'allora funzione pubblica Nicolais, eccetera, perché nessuno lo interpellava. Nessuno lo interpellava evidentemente perché nessuno aveva ricevuto una valutazione negativa e quindi nessuno aveva sentito l'esigenza e il bisogno di appellarsi a questo organismo di tutela. Questo per dire che è vero che le norme, i contratti, le leggi già da tempo, come dire, puntano l'accento su questo meccanismo, sull'esigenza di selezionare, valutare, eccetera. La prassi molto spesso va da altre parti. Questo per dire che cosa? Che va molto bene, insomma, va più o meno bene, è criticabile, ma comunque è importante che ci sia questa enfasi anche da parte ministeriale su questo tema. Se questa enfasi produce nuove norme, le quali non producono nuove prassi, saremmo punto e a capo anche dopo, diciamo, questa ondata di ideologia del merito che si sta cercando di mettere anche nella pubblica amministrazione, soprattutto se si ferma l'ideologia. Massimiliano da Milano, un nostro ascoltatore, buongiorno, ci dica. Buongiorno, volevo intervenire per quanto riguarda la qualifica degli operatori dell'Agenzia delle Entrate. Non facendo di tutto un erbo un fascio, comunque sentivo prima dire che il personale addetto a un'alta qualifica. Secondo me non è affatto vero. Mi è capitato di frequentare un'agenzia delle entrate per una cartella esattoriale e praticamente sono ancora in ballo da circa 10 anni per un errore di trascrizione di un ufficio e quindi di un dipendente di questa agenzia. Praticamente, per farlo molto in breve, arriva una cartella esattoriale, controlliamo se esatto o sbagliata, la cartella era sbagliata, vado all'agenzia delle entrate, mi faccio fare lo sgravio, la persona che mi fa lo sgravio, scrivendo a macchina, neanche o al computer adesso, non mi ricordo più, mi scrive il numero della cartella errata. Passano circa un anno, mi ritorna indietro una cartella con scritto appunto che non l'avevo pagata perché invece era la solita cartella che veniva contestata. Alla fine siamo in ballo da non so quanto tempo, ormai parliamo di 7, 8, 9 anni, e questa cartella continua a rimbalzare a destra e a sinistra. 8:47 minuti, eccoci nella seconda parte di Dietro la Notizia. Dunque, dottor Gentile, ha sentito l'ascoltatore, Massimiliano, in qualche modo dice metto in dubbio il livello di professionalità. Certo, se vuole controbattere si accomodi, mi rendo conto che sono casi assolutamente specifici, quindi non fanno necessariamente scuola. No, ma io voglio cogliere l'occasione per dire... La cartella esattoriale mi richiama il concessionario della riscossione più che l'agenzia, che gli uffici dell'agenzia, ma non voglio eludere il problema. Qui bisogna capire che l'agenzia fornisce milioni di servizi annualmente. È chiaro quindi che ci possono essere le distonie, gli errori, e appunto per questo bisogna calcare la mano sul merito. Appunto per questo noi facciamo delle indagini di customer satisfaction sugli utenti per capire la capacità di risposta, la precisione della risposta e tutto quello che serve per poter migliorare il servizio. Proprio questa risposta dell'utente, anche se è un caso che può essersi ripetuto più volte o certo, meno, deve proprio spingere alla migliore qualità del servizio. Ecco, ci dica in estrema sintesi quali sono gli elementi che determinano, che indicano, che sono per lei degli indicatori di una professionalità in miglioramento, quindi a che cosa osserva nella valutazione del personale? Guarda, io posso parlare dell'esperienza del Trentino, perché con l'organizzazione sindacale abbiamo sottoscritto un accordo che ha consentito di distribuire il salario accessorio in base ai meriti individuali. Lei sa che le attività dell'Agenzia delle Entrate sostanzialmente sono di due tipi, quelli di contrasto all'evasione e quello di servizio al contribuente. Un caso tipico di servizio al contribuente è l'erogazione dei rimborsi spettanti. E lì abbiamo gli addetti ai rimborsi sono stati premiati a seconda il numero dei rimborsi che hanno fatto e anche secondo l'importo del rimborso. Quindi abbiamo differenziato in questa maniera. Un altro esempio per quanto riguarda l'attività di contrasto all'evasione, per quanto riguarda gli accertamenti fiscali, l'indicatore di produzione individuale che abbiamo creato è stato quello di tenere conto non solo del numero dei controlli da ognuno fatti, ma anche della maggiore imposta accertata ed anche se questa maggiore imposta poi fosse stata riscossa. Quindi, come vedete, degli indicatori abbastanza puntuali. Chiaramente nell'applicazione, nell'esperimentazione tutto è migliorabile, però a me pare che abbiamo tracciato una linea che consente di differenziare chi lavora di più e lavora meglio. Grazie al dottor Antonino Gentile. Volevo chiedere invece a Gianni Provati in che modo il salario è appunto indice e strumento di questa possibile trasformazione. Sì, il salario è la leva fondamentale, nel senso che legare una quota crescente di salario ai risultati appunto misurabili e verificabili, come si diceva adesso, è una cosa importante, lo dicono tutti, il Ministero della Pubblica Amministrazione lo ripete alcune volte ogni giorno, diciamo così. Però la cosa curiosa che è emersa settimana scorsa è indecisa controtendenza ancora una volta la prassi, nel senso che la settimana scorsa è stato firmato l'accordo per il rinnovo contrattuale dei ministeriali, che tradizionalmente nella pubblica amministrazione è il primo, detta la linea, diciamo, poi per tutti gli altri, da cui è emerso che tutto il pacchetto, diciamo così, di risorse messo in campo per gli aumenti contrattuali per il nuovo biennio economico è stato tutto interamente diciamo spalmato sulla parte fissa, sul cosiddetto stipendio tabellare. La cosa è curiosa, diciamo, per non dire di peggio, per due ragioni. Uno, perché appunto la settimana prima era stato firmato un protocollo d'intesa al Ministero della Pubblica Amministrazione con molta solennità, eccetera, che diceva il contrario, cioè che diceva che una quota iniziale già sensibile, diciamo, e poi crescente nel tempo doveva essere invece dedicata al salario cosiddetto incentivante, quello di produttività. E la seconda cosa, perché questo qui è un ottimo modo per, come dire, mettersi al riparo dalle misure antiassenteismo che quest'estate hanno creato grossa polemica, introdotte sempre dal ministro Brunetta nella manovra d'estate, che sostanzialmente per i primi 10 giorni di assenza e così via, per combattere le assenze brevi, tagliano nei giorni di assenza la quota variabile del salario, cioè il salario cosiddetto non accessorio. Chiaramente, se nei rinnovi contrattuali io sposto risorse dal salario accessorio al salario, diciamo, fisso, tabellare, eccetera, si rende anche meno efficace, meno duro il taglio che si verifica nei giorni di assenteismo. Per cui, quando era emersa quella norma, alcuni analisti, insomma, ci eravamo detti che probabilmente una tendenza del sindacato sarebbe stata quella di mettere al sicuro, legittimamente da parte certo. sindacale ovviamente, mettere al sicuro una crescente di salario spostandola sul fisso. La cosa è puntualmente avvenuta con un contratto firmato la settimana scorsa, quindi parliamo, voglio dire, di cose successe nel pieno di questa ondata di merito. Questo per dire che tra teoria e prassi esiste ancora una discrepanza. Abbiamo molto ancora ampia. Un ascoltatore, almeno uno da Roma, ci chiama Gianni, le chiedo sintesi, buongiorno innanzitutto. Guardi, voi giornalisti e noi tutti italiani conosciamo che da 50 anni si ripetono le stesse cose. L'errore di fondo sta nel vertice. C'è una scelta indefinibile da parte di chi comanda. La classe dirigente è complice con un certo sindacato giallo nel cogestire la materia. Si inventano strumenti artificiali per reagire promozione. Guardi quel signore che ha parlato prima, il dottor Della Seta, non so come si chiama, ha identificato Gentile, tutta una serie di parametri per dare un perenne aumento retributivo e non occasionale, dimenticandosi che l'efficienza scaturisce da una piramide gerarchica con numeri fissi dai quali non si può prescindere, e quindi in questa piramide vanno distribuite le promozioni, ma non le promozioni permanenti, bensì una tantum e annuali verificabili annualmente. Grazie Gianni, la ringrazio, sono ormai le 8:54 minuti, mi scuso con gli ascoltatori in attesa, il tempo corre, io ringrazio per essere stati con noi Gianni Trovati, che è qui con me in studio, il dottor Antonino Gentile, lo ricordo, direttore delle Agenzie delle Entrate nel Trentino, e ora vi lascio naturalmente GR24 e poi al consueto appuntamento con Viva Voce.